Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un caro saluto e una benedizione. Ci troviamo al nostro appuntamento mensile sugli Atti degli Apostoli per questa lettura continua della Parola di Dio, dove il nostro obiettivo è proprio quello di lasciarci illuminare da questa parola, perché non tocchi solo la nostra mente, ma scendendo nel cuore plasmi la nostra vita. Questa sera trasmetto dalla mia comunità di Roma, dove sono sceso per concelebrare le esequie di Don Gabriele Amort, un mio confratello paolino, conduttore molto conosciuto sulle onde di Radio Maria, che per tanti anni ha svolto il ministero della lotta contro il male e dell'annuncio della parola di Dio in modo egregio. Continuiamo ad affidare questo caro fratello alla misericordia di Dio e chiediamo la sua intercessione dal cielo. Bene, cari ascoltatori, questa sera toccheremo quel passaggio degli Atti degli Apostoli che segna proprio l'apertura alla missione. Siamo arrivati nella nostra lettura continua degli Atti al capitolo 15. La volta scorsa abbiamo trattato il tema dell'Assemblea di Gerusalemme, dove si sono radunati e confrontate le diverse anime del cristianesimo delle origini. Bene, questa sera vedremo ciò che succede all'indomani di questa importante assemblea, dove avviene l'apertura, per opera dello Spirito Santo, della missione cristiana. Cominciamo quindi con il primo brano. Il primo brano lo troviamo al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 36 al versetto 41. Invito quanti di voi ne hanno la possibilità di tenere davanti agli occhi un'edizione della Bibbia o quantomeno del Nuovo Testamento, in modo da seguire con più facilità la riflessione che insieme faremo. Ascoltiamo il testo. Dopo alcuni giorni, Paolo disse a Barnaba: «Torniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno». Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni, soprannominato Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro, Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Attraversò così la Siria e la Cilicia, confermando le chiese. Bene, questo è il primo momento, la prima scena che si apre all'indomani dell'Assemblea di Gerusalemme. E notiamo che al termine di quell'assemblea il primo elemento che viene sottolineato dall'autore sacro, da Paolo e Barnaba, visto come una necessità, è la formazione delle chiese. Non basta, in altre parole, suscitare delle comunità cristiane in tutte le regioni attorno a Gerusalemme. Si sente fin da subito la necessità di fortificare queste chiese. Come mai questa necessità? La necessità è insita nell'assemblea stessa di Gerusalemme, visto che all'interno delle comunità cristiane si muovevano diverse anime provenienti dalla formazione, dalla diversa formazione dei singoli fratelli, era importante ripassare nelle diverse comunità cristiane, dire quello che era emerso nell'assemblea di Gerusalemme e prendere l'occasione per fortificare la fede dei credenti. Qual era il rischio che Paolo e Barnaba cercavano di evitare? Quello di vedere il cristianesimo solo come una sorta di corrente interna al giudaismo. L'Assemblea di Gerusalemme aveva sottolineato che il cristianesimo non poteva essere vista come una corrente interna al giudaismo, ma era il compimento di quello che il popolo ebraico da sempre attendeva. La decisione dell'Assemblea di Gerusalemme di non imporre la circoncisione ai credenti provenienti dal paganesimo ne era il segno più evidente. Ormai al centro della fede cristiana non doveva esserci la legge ebraica con tutti i suoi precetti, pur santi, ma al centro c'era la fede nel Cristo che ha patito, morto, che era patito, che aveva patito, che era morto e che era risorto e che vivo viveva in mezzo ai fratelli. Quindi questo è l'obiettivo di Paolo e Barnaba, ripassare nelle diverse comunità cristiane per sottolineare i fondamenti della fede, ciò che guidava i singoli fratelli. È a questo punto che assistiamo a un dissidio. Ci viene detto che Barnaba voleva prendere con sé Giovanni, soprannominato Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia. Cos'era successo? Marco aveva assistito alla prima missione cristiana, dove Barnaba era il capofila e Paolo seguiva, anche se poi pian piano Paolo aveva preso un po' la guida di questa missione. Nel momento in cui questa missione si era aperta oltre i confini del giudaismo, in territori dove il giudaismo era minoritario, Marco aveva fatto dietro fronte, perché riteneva probabilmente che quell'apertura al mondo pagano potesse costituire un rischio. Non aveva tutti i torti e l'Assemblea di Gerusalemme aveva dimostrato questa cosa. Marco non era l'unico all'interno del cristianesimo delle origini che vedeva con un certo sospetto questa forma di apertura. Ora Paolo questa cosa l'aveva vista come una mancanza di fiducia. Sentiva che lo spirito aveva bisogno per portare avanti la sua opera di persone libere e Marco non aveva ancora raggiunto quella libertà del cuore necessaria per l'annuncio. Barnaba ritiene che dopo l'Assemblea di Gerusalemme Marco non avesse più problemi, aveva forse bisogno di quel consolidamento, conferma che avveniva all'interno, che era avvenuto all'interno della Chiesa Madre di Gerusalemme. Paolo ancora non si fida. Ecco allora la divisione dei campi di missione. Barnaba e Marco si dirigono in quella realtà che era loro più consona, la realtà di Cipro, dove comunque le comunità giudaiche erano la maggioranza. Paolo parte per altri orizzonti. È interessante notare come il versetto 40 dice che Paolo scelse Sile e partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Partì, gli orizzonti non vengono subito delineati. Poi viene menzionata la Siria e la Cilicia, ma come luoghi di attraversamento, non come meta, mentre Barnaba e Marco si dirigono a Cipro. Quindi notiamo, Paolo parte con un'apertura di cuore e un'apertura di mente che indica la sua precisa volontà di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo per quelle che saranno le vie che lo Spirito Santo aprirà. E noteremo, lo noteremo proprio stasera nella lettura del testo, che è proprio lo Spirito a decidere le tappe. Quindi Barnaba e Marco restano, come dire, dei punti di riferimento per il cristianesimo che proviene dal giudaismo. Paolo e Sila partono diventando pian piano il punto di riferimento per quel cristianesimo che nasce dal mondo pagano. Come mai Paolo, tra le tante persone che poteva scegliere, sceglie la figura di Sila e non parte da solo? Perché nella sua esperienza Paolo ha sperimentato prima di tutto che la missione cristiana, fin dalle sue origini, è una missione di comunione, non può essere una missione scandita da un io, da un individuo, deve essere un'espressione di una chiesa, di una comunione. Quindi la scelta di Sila non è solo la scelta del compagno con cui Paolo si può trovare bene, Sì, lei è rappresentante di una chiesa, la Chiesa Madre di Gerusalemme, che Paolo vuole tenere presente durante la sua missione. Tanto vero che pian piano, attraverso le diverse regioni, comunica sempre quanto è stato deciso nella Chiesa di Gerusalemme. Paolo compie la sua missione come Barnaba a nome di una comunità e vuole essere proprio espressione di questa comunità. Dicevamo prima che mentre Barnaba e Marco hanno un preciso obiettivo, Cipro, cioè si sono dati un progetto, Cipro, Paolo e Sila non si danno un preciso obiettivo, lasciano che questo obiettivo sia delineato dallo Spirito. Penso sia anche qua qualcosa che ci può far riflettere, no? Quante volte noi in partenza, ed è una cosa buona, non è una cosa sbagliata, però in partenza, all'inizio ad esempio di un anno pastorale, all'inizio di un anno comunitario, all'inizio di non so, qualche cosa di significativo che può coinvolgere le singole comunità, stendiamo il piano pastorale, il progetto comunitario, il piano dell'anno, tutti strumenti validi che possono dare degli orientamenti, ma se non stiamo attenti rischiano di farci cadere in una trappola, quella di non mantenere quella libertà del cuore dove lo Spirito può agire con più libertà, scandendo quella che è la volontà di Dio. Quindi tutti questi strumenti che servono alla nostra pastorale dobbiamo vigilare sempre bene per capire come sono messi a servizio. Lo diciamo proprio nel mese di settembre, quando tutti più o meno cercano di stendere questi programmi, queste lettere di orientamento. Ecco, sempre, sempre tenere questa predisposizione che emerge dallo stile di Paolo di partire lasciando quei sensi aperti, quelli dell'udito e quelli della vista, per riconoscere dove lo Spirito vuole accompagnare la comunità. Ecco, notiamo tra l'altro in questo primo brano che descrive il dopo dell'Assemblea di Gerusalemme, come la differenza degli animi che a Gerusalemme era emersa grazie alle figure di Paolo, Barnaba da un lato, Giacomo dall'altro, Pietro dall'altro, questa differenza di sensibilità la ritroviamo all'interno della missione cristiana. Ora, le divergenze non significano assenza di comunione, il dissenso non è assenza di comunione. Il dissenso è segno di quelle anime complementari che, notiamo, lo Spirito non soffoca. La differenza è una ricchezza all'interno del cristianesimo delle origini, una ricchezza che si manifesta a Gerusalemme, che si manifesta nel dopo Gerusalemme in queste anime diverse che guidano la missione cristiana, Barnaba e Marco da un lato, Paolo e Sila dall'altro, una ricchezza che si manifesterà poi anche negli scritti che faranno da riferimento della comunità cristiana. Pensiamo anche solo ai quattro Vangeli. I quattro Vangeli esprimono nella loro diversità la ricchezza della complementarità. Quattro mondi, quattro comunità cristiane dalle sfumature diverse che rileggono la vita e il mistero di Cristo, sottolineando ciascuna il proprio aspetto. Lasciamo ora un breve stacco musicale in modo che ciascuno possa rileggere questi versetti prima di vedere come si avvia la missione cristiana di Paolo e Sila e come nasce la prima comunità cristiana. Quindi un breve stacco musicale, poi continueremo nella nostra lettura. Ecco, riprendiamo nella nostra lettura degli Atti degli Apostoli, prendendo ora il capitolo 16, che ci descrive qual è il primo orizzonte abitato dalla missione di Paolo e Sila. Arrivò anche a Derbe e a Listra, ed ecco, vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di madre giudea, credente, ma di padre greco, molto stimato dai fratelli di Listra e Iconio. Paolo voleva portarlo con sé nei suoi viaggi. Così lo fece circoncidere a causa dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Mentre attraversavano la città, trasmettevano loro i decreti sanciti dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme perché li osservassero. E le chiese si irrobustivano nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Passarono poi la Frigia e la regione della Galazia, essendo stati impediti dallo Spirito Santo ad annunciare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, tentavano di recarsi in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Allora, oltrepassata la Misia, scesero a Troade. Durante la notte Paolo ebbe una visione. Un macedone in piedi così lo supplicava: «Passa in Macedonia e aiutaci». Dopo quella visione subito capimmo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati a portargli il lieto annuncio. Allora, questa pagina è veramente una pagina molto bella per capire il discernimento che bisogna compiere quando bisogna capire la missione da imboccare, qual è la missione da prendere. Paolo si presenta in questa pagina come un modello proprio di discernimento. Ma vediamo di riprendere i singoli versetti della narrazione per capire come Paolo procede. Allora, abbiamo detto che Paolo è in compagnia di Sila. Arrivato a Derbe e a Listra, unisce a questo gruppo un'altra figura, la figura di Timoteo. E qui nasce subito un interrogativo. Come mai Paolo, che tanto ha insistito perché il cristianesimo non si fondasse sulla circoncisione, a un certo punto la prima cosa che fa con il primo discepolo che unisce al gruppo è quello di farlo circoncidere? Come mai questa scelta? Non è forse una contraddizione da parte di Paolo? Ecco, Paolo ha bisogno di una persona che dica due cose. Che dica, uno, ai giudei che Paolo osserva la legge e ci tiene alla legge ebraica. Due, che Paolo vuole prima di tutto portare la testimonianza del Vangelo di Cristo al mondo giudaico, poi a quello pagano. Ora, se lui non avesse fatto circoncidere Timoteo, Timoteo sarebbe stato un impedimento a entrare con l'annuncio cristiano all'interno delle sinagoghe. Ecco allora il bisogno di Paolo. Paolo dice: io so la tua origine, tutti sanno la tua origine, tuo padre è un pagano, ma tua madre è ebrea. E nella tradizione ebraica, fin dal primo secolo, sappiamo che l'identità dei figli passava attraverso il sangue materno, quindi fino ad oggi uno è ebreo se ha la madre ebrea, tutti i carismi per essere anche lui ebreo. Ecco perché fa circoncidere Timoteo. È un segno di inculturazione e di prudenza in questo primo momento. E più avanti Paolo si manifesterà, soprattutto quando imboccherà la via del mondo completamente pagano, si mostrerà molto più libero, ma in questo momento la sua azione è un'azione di prudenza, una prudenza sana, nel senso che è improntata al bisogno di dialogo e di comunione con i destinatari a cui Paolo si vuole rivolgere. Timoteo in questo modo diventa la figura non solo che accompagna Paolo nella predicazione, ma diventa anche la sintesi di quel Vangelo che porta, perché è un uomo nel quale si condensano le origini pagane e le origini ebraiche, tutte messe a servizio del Vangelo. È ciò che Paolo vuole. Quindi, da un lato, è un segno di attenzione al mondo giudaico, dall'altro è ciò che Paolo desidera per le sue comunità. Quello che si compie in Timoteo è ciò che Paolo desidera per le comunità. Persone che provengono dal paganesimo, persone che provengono dal giudaismo, capaci di convivere insieme nella piena serenità, mettendo tutto a servizio di Cristo. E mentre attraversavano la città, notiamo, trasmettevano i decreti sanciti dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme. Notiamo, Paolo tiene a mantenere questo filo rosso con la comunità madre di Gerusalemme, segno di rispetto, segno di comunione, e la risposta avviene. Le chiese si irrobustivano nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Erano partiti con Paolo e Barnaba al fine di fortificare i fratelli attraverso la visita alle comunità. Ora lo Spirito risponde mostrando come il passaggio di Paolo, Sila e Timoteo irrobustiscono i credenti nella fede, e non solo li irrobustiscono, ma li rendono fecondi, sono attraversati dalla vita. Questa domenica nella liturgia ambrosiana, io abito a Cinisello Balsamo, quindi in pieno territorio ambrosiano, la liturgia ambrosiana presentava ai fedeli quel brano del Vangelo dove Gesù dice: il Padre ha la vita in se stesso e ha permesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso. E poi continua sottolineando come la forza di questa vitalità si manifesta nella capacità di abbattere i sepolcri e risorgere i morti, cioè tutte le morti, tutti i sepolcri, tutte le barriere vengono vinte. Ecco, qui ne abbiamo una prova. Le comunità abitate dalla vita diventano forti di questa vitalità e diventano fecondi. Come diceva un padre durante il recente corso di esercizi che ho vissuto, se uno è incinto, prima o poi partorisce. Se uno ha la vita dentro di sé, prima o poi questa vita viene generata e genera altra vita, porta vita, comunica vita. Ecco, la trasmissione dell'annuncio di Paolo è una trasmissione di vita, di vitalità, che è segno proprio concreto che lo Spirito abita le diverse comunità. Il testo poi continua dicendo che dopo la visita ad Erbe e a Listra, resa feconda da un lato l'aggiunta di Timoteo al team missionario, dall'altro dal segno di queste comunità che si robustiscono e crescono di numero, ecco il momento della prova. Paolo cerca di dirigersi verso quegli orizzonti che aveva progettato, progetto pastorale famoso, aveva progettato, ma le strade sono bloccate. Il testo dice: passarono per la Frigia e la regione della Galazia, essendo stati impediti dallo Spirito Santo ad annunciare la parola in Asia. Che cosa? Come lo Spirito Santo ha fatto capire che lui impediva? Ecco, gli esperti, facendo una lettura incrociata degli Atti degli Apostoli con l'epistolario paolino, in questo caso la lettera ai Galati, pensano di individuare questo nella malattia menzionata da Paolo nella lettera ai Galati, dove dice: per una malattia io mi sono dovuto fermare in mezzo a voi, e ciò che poteva essere generare repulsione negli altri, voi invece ne avete fatto l'occasione per manifestare carità nei miei confronti. Quindi probabilmente qui l'ostacolo è una malattia. Giunti ai confini della Misia, tentavamo di recarci in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Qua cos'è successo? Ma forse alcune situazioni climatiche, forse alcune indisposizioni da parte di qualcuno nel team missionario, forse alcuni ostacoli da parte di persone che erano ostili a Paolo, Sila e Timoteo. Allora, oltrepassata la Misia, scesero a Troade, e qui a Troade non sanno più cosa fare. Durante la notte Paolo ebbe una visione, un macedone in piedi lo supplicava: passa in Macedonia e aiutaci. Ecco, questa visione di notte che serve per Paolo per individuare la nuova tappa del cammino. Alcuni esegeti ritengono che forse ciò che qui viene descritto da Luca come una missione non fu tanto una visione, ma fu piuttosto un incontro, l'incontro con il macedone Luca. perché dicono che Luca, il futuro evangelista, può essere identificato con questo Macedone, perché subito dopo, versetto 11, subito dopo questa descrizione, al versetto dopo, gli Atti degli Apostoli cominciano la narrazione alla prima persona plurale. Entra in scena il noi. A questo punto, entrando in scena il noi, Luca diventa coprotagonista, come proprio se quel Macedone che Paolo aveva visto in visione fosse lui. E allora ecco perché alcuni esperti, alcuni esegeti dicono Paolo a Troade, in un momento di grande incertezza sul futuro della missione, incontra Luca e l'insistenza di Luca gli fa capire che lo Spirito non li voleva in Asia. Non li voleva in Bitinia, ma li voleva in Macedonia. Ora, il passaggio in Macedonia non è una cosa banale. Ecco, noi ascoltiamo questi nomi, sentiamo Misia, Galazia, Asia, Bitinia, ci sembrano tutte regioni uguali, ma la Macedonia non era una regione uguale all'altra, alle altre, perché passare in Macedonia significava, tradotto nel linguaggio di oggi, passare da un continente all'altro. Significava passare dall'Asia, che era il mondo attorno a Gerusalemme, quindi il mondo più orientale, all'Europa. L'Europa, in quanto regione occidentale, era già riconosciuta dal IV secolo, V secolo avanti Cristo. Ora, passare in Macedonia significava passare il Bosforo, i Dardanelli, il Bosforo e i Dardanelli, e entrare in un altro continente, entrare nel continente europeo. Ed era non solo un passaggio geografico significativo, era anche un passaggio socio-religioso significativo, perché significava entrare in un mondo completamente pagano, dove le comunità ebraiche erano sicuramente una minoranza e dove in alcuni casi questa minoranza non riusciva a raggiungere nemmeno il numero necessario per costruire una sinagoga, cioè il numero di 10 persone adulte di sesso maschile, come vedremo subito nella prima città che il team missionario incontra, e anche in un contesto sociale molto diverso, perché è il mondo sociale dei dominatori. Il mondo dei greci prima, il mondo dei romani ora, che fanno sentire in modo molto più forte che non in Asia il loro pugno, la loro cultura. Quindi quel passo in Macedonia, aiutaci, significa far fare alla Chiesa delle origini un grande salto, un grande segno di apertura. Non siamo più nell'orizzonte di Gerusalemme o nell'orizzonte della Samaria e nemmeno in quello di Antiochia. Siamo veramente all'apertura a quelli che sono i grandi confini della terra, come gli Atti degli Apostoli dicevano all'inizio del racconto. Anche su questo vorrei fare una sottolineatura. Notiamo come singoli episodi che umanamente possono generare contrarietà o frustrazione, una malattia, un ostacolo, l'indecisione a Troade di sapere dove andare, letti da un altro punto di vista, cioè letti con gli occhi della fede, diventano momenti provvidenziali, non solo momenti provvidenziali, ma momenti che spalancano le porte della missione cristiana verso un orizzonte altro. E allora veramente ci troviamo confrontati con quell'azione dello Spirito di Dio che genera vita nuova in modo del tutto inaspettato. Penso che questa pagina possa portare speranza a molti di noi, no? Che la leggiamo questa sera, perché quante volte anche noi ci troviamo in mezzo a dubbi, a contrarietà, ostacoli che non avevamo previsto e che magari impediscono di realizzare un progetto che ci sembrava sacrosanto e non ci accorgiamo che proprio così facendo il Signore ci apre orizzonti altri, progetti molto più grandi, prospettive nuove, senza le quali la missione cristiana rischierebbe di essere una missione sulla nostra misura, non su quella dello Spirito. Ecco, lasciamo ancora un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi ha modo di rileggere questi versetti, versetti da 1 a 10 del capitolo 16, per poi entrare nell'ultima scena di questa apertura delle origini, cioè la scena di Paolo nella prima comunità cristiana d'Europa, la comunità di Filippi. Ma lasciamo un breve stacco musicale. Eccoci di nuovo, cari ascoltatori, quindi siamo al capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. Abbiamo visto come all'indomani dell'Assemblea di Gerusalemme si compone questo nuovo team missionario formato da Paolo, Sila e Timoteo e come nel cammino di annuncio lo Spirito Santo prepara un nuovo orizzonte alla missione cristiana, quello della Macedonia. Allora ci siamo soffermati sulla visione notturna di Paolo, dove vede un macedone in piedi che lo supplica: passa in Macedonia e aiutaci, e da quel momento l'orizzonte della missione cristiana entra decisamente nel mondo pagano, lascia il continente asiatico per entrare nel continente europeo e si avventura come dire, sulle strade dello Spirito Santo in modo del tutto inedito. Diventa allora interessante e significativo notare quali sono le caratteristiche della prima comunità che viene fondata, che nasce, più che viene fondata perché il protagonista alla fine non è mai Paolo, ma che nasce sulla scia di questo appello allo Spirito. Allora leggiamo i versetti dall'11 al 15, dove viene descritta la nascita della prima comunità d'Europa, la comunità di Filippi. Ascoltiamo il testo. Salpati da Troade, ci dirigemmo dritto verso Samotracia e il giorno seguente a Neapoli. Di là ci recammo a Filippi, che è la prima città del distretto della Macedonia ed è una colonia romana. In questa città facemmo una sosta di alcuni giorni. Il sabato uscimmo dalla porta della città presso un fiume dove pensavamo che si tenesse la preghiera. Ci mettemmo a sedere e parlammo alle donne che vi erano radunate. Una donna chiamata Lidia, venditrice di porpora della città di Tiatira, che onorava Dio, stava in ascolto. Il Signore le aprì il cuore perché potesse comprendere le cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con tutta la famiglia, ci invitò con queste parole: «Se mi giudicate fedele al Signore, venite a stare a casa mia». E ci costrinse ad accettare. Pochi versetti che descrivono la nascita della prima comunità cristiana d'Europa. Ora, se volessimo così semplicemente delineare i tratti di questa prima comunità cristiana, mi sembra che ne dovremmo individuare almeno